Io canto e tu seduta un po' più in là mi aspetti per andare a letto, ma stasera non mi va. Io scrivo e tu ti appoggi accanto al piano. Vorrei volare in alto e tu mi fai sentire come un artista nano. Se penso che eri la sola che credeva in me e il nostro amore, guardalo un po' ora. Io canto e tu prendi il telefono per ore, ti guardo e tu vesti trasparente, ti immagino fra braccia nude di un amante e non mi importa niente. Ti immagino che torni bella e sorridente, ma non mi importa niente. Io canto e tu intanto gridi che è finita. Muore l'amore, tutto il resto è vita. Io canto e tu l'amore lascia il suo teatro. Come un artista che va via. E tu seduta un po' più in là sembri il meccanico, il dentista, l'avvocato, tutti senza anima.